Vado a casa mia, schia. Bene, ricordo a tutti. Non ricordo il capitolo dove siamo arrivati l'altra volta. Prima pagina. Sì. A cena dagli Arnò. Il capitoletto 9, in mezzo di camicia l'abbiamo fatto, quindi c'è il 10. Il 10 non l'abbiamo fatto, eh? No. Ecco. Però il 10 è dopo. Dopo il 9, la pagina successiva, e comincia con il capoverso. Êtes-vous libre demain soir? Il accepté, avant que la phrase du HD. Vous avez trovato? No. Êtes-vous libre demain soir? La pagina dopo, successiva. Ah, siamo? Sì, sì. Bene. 74. Che pagina è? 74. Capitolo 10. Il 10? Cioè tutto qui che stiamo facendo? Sì. Si intitola i capelli, virgola, le unghie. Le unghie. Allora, mi rincresce che non ci siano tutti quanti ragazzi, perché invece da questo momento in poi è assolutamente essenziale la vostra presenza. Cioè, rischiate di non poter fare l'esame, per, questo è un punto importante che vi devo dire. Da questo momento in poi cercate di non perdere nessuna lezione. Domani non c'è lezione. Domani venerdì non c'è lezione proprio per questo motivo specifico, perché in teoria ci sarebbe, perché l'università è aperta, ma in pratica dovevo dire delle cose importanti, e siccome ormai si parla anche sotto Pasqua, il rischio che ci siano molte persone che sono partite, eccetera, eccetera, fa sì che non facciamo lezione domani. Però questo vuol dire una lezione di meno che dovremo recuperare giovedì prossimo, quindi riprendiamo giovedì prossimo. Ma badate a quello che vi dico ai presenti, che sono presenti e che fanno purtroppo sempre, nonostante la mia raccomandazione, questo giochettino che vanno gli uni, gli altri, eccetera. I pochi fedeli li vedo, li conosco molto bene. Ecco, questo giochetto non fatelo più, perché poi vi siete bloccati. Ecco, questo è il punto. Che non fa piacere a voi, ma, come forse non sapete, non fa nemmeno piacere a me, evidentemente, eh? Quindi cercate da questo momento di non mancare più nemmeno a una lezione e non pensate di sostituire la lezione con il registratore. È tutta un'altra cosa, ve lo dico per il vostro esclusivo interesse. Allora, sono chiaro? Avete l'impressione di non essere chiaro? Adesso lo chiedo a lui perché mi fido di più. Scusa, sono chiaro? Come due, senta un po', come due più due c'è quattro? Sì, più o meno. Professore. Allora, la cosa che Flora mette in evidenza è che tutto quanto riguarda l'oggetto d'amore è per noi, diventa di estrema importanza. Abbiamo già accennato a questo tema così semplice, che fa sì che però l'educazione sentimentale sia il più interessante romanzo probabilmente mai scritto, anzi sicuramente mai scritto, insieme ad Anna Karenina sulla fenomenologia dell'amore. Tutto diventa importante, diventano importanti i parenti della persona amata, le sue abitudini, gli oggetti, i tic nervosi, i vizi. E quindi naturalmente il marito, che è sentito come rivale, dovrebbe essere sentito evidentemente, il marito Arnoux, però diventa un prezioso ricettacolo di informazioni preziose sulla vita di lei, perché ove mai potesse, si fa naturalmente per dire, perché Flaubert non ammetterebbe una cosa di cui, potesse informare lui della biancheria intima di lei, beh, insomma sarebbe una bella cosa. Perché di che cosa è fatto poi l'amore? L'amore è fatto di biancheria intima. Questa è una delle frasi che potete mie mettere Belletto, naturalmente. Ma cosa intendo dire con una frase di questo genere? Intendo dire il fatto di piccole cose che hanno a che fare con la persona. Dalla seconda osservazione che volevo farvi è questa. L'arte di Flaubert è un'arte assolutamente unica nel romanzo dell'Ottocento, cioè quella di far parlare i personaggi secondo la loro indole, secondo la loro voce, secondo la loro indole. Il che, per esempio, secondo me, dovrebbero così meditare meglio su questa affermazione, è molto più difficile da vedere in altri grandi scrittori realistici. Gli altri grandi scrittori realistici sono Stendhal e Balzac, in cui si sente tutto sommato sempre la regia dell'autore, e quindi non c'è una distinzione nettissima. Se io, per esempio, in Stendhal guardo il modo di parlare di Gina Sanseverina, del Conte Mosca, non vedo poi distanze abissali. Invece Flaubert si fa un punto d'onore di costruire uno stile per ognuno dei personaggi. E questo fa sì che i personaggi, quando noi li vediamo dire una battuta, abbiamo una sensazione, come dire, calda, affettuosa, perché diciamo, ah sì, quello parla proprio così. Ecco, perché volevo sottoporvi questa concezione, questa idea, che del piacere del riconoscimento, eh? Capite bene? Ecco, uno dei piaceri più segreti e strani della vita è quello del riconoscere, del ritrovarsi, ecco, del sapere che una cosa la conosci già, che hai già avuto un rapporto. Quindi il lettore che vede che Arnoux, per esempio, che è sostanzialmente uno sbruffone, è una persona mediocre, una persona che si dà a questa attività dell'area industriale, cioè nel campo dell'arte, insomma, ne avrete visti, probabilmente ne vedete, di persone di questo genere nella società romana che cercano di barcamenarsi, chissà cosa farebbe oggi Arnoux, cercherebbe sicuramente di lavorare per Mediaset, insomma, girerebbe negli ambienti della RAI, cosa farebbe Arnoux? Ecco, perché per far vivere la letteratura bisogna sempre chiedersi queste cose qui, insomma, quanto questo romanzo oggi è vivo. Credo che L'educazione sentimentale sia uno dei libri in assoluto più vivi, vitali, autentici, più contemporanei della storia dell'umanità. Di Frédéric Moreau, non mutatis mutandis, naturalmente, ne conosco, ne ho conosciuti. Quindi Arnoux fa un invito. Perché fa un invito a Frédéric? Lo fa con questo spirito, ma negli occhi, perché la cosa importante è poi capire queste sottigliezze. Why not? Cioè, questo qui è un bravo ragazzo, frequenta mia moglie, la nostra casa, così, eccetera. Ma vediamo un po', tanto per passare un po' di tempo con lui. Questo è lo spirito di Arnoux. Lo spirito di Frédéric, naturalmente, nell'accettare, non è questo. Passiamo un po' a Arnoux, è per lui quello che va a letto con la donna che lui ama. Quando dico va a letto con la donna che lui ama, non dovete pensare che Frédéric sia nella psicologia, già mi vorrei scopare la moglie di Arnoux. Nulla di più lontano di questo pensiero che uno di voi avrebbe. Lui è lontanissimo dal pensiero di questo genere, lui è una sorta di adorazione estatica di Madame Arnoux. Comunque l'intimità di Madame Arnoux, che vale più di qualunque coito, l'intimità la possiede Arnoux, quindi sa l'odore della sua pelle, sa piccole abitudini intime che possono essere infinitamente più eccitanti di contubernalità, contubernalità, avete capito di cosa intendo, contubernalità sessuale, insomma. E allora sentite la leggerezza con cui si esprime, sempre che ritrovi, ecco qui, scusate, non so come mai ho una specie di arte diabolica nel perdere il segno quando ho aperto la pagina, che è anche bella perché è una sorta di reazione che ha il libro con me, una sorta di, pensate, di dialogo, no? Molto affascinante. Io apro il libro, mi aspetterei che il libro come oggetto inanimato rimanesse dove sta, invece il libro fa questa specie di fantasmatico rispetto ogni volta nel togliere la pagina a cui l'ho lasciato e mettersi a un'altra, insomma, che mi consente di insultarlo, di malmenarlo affettuosamente. E allora gli dice: siete libero domani sera? E io come rispondere? Lui accettava prima ancora che la frase fosse compiuta. Se avete un essere d'amore e qualcuno vi può mettere in contatto con l'essere d'amore, gli dice: domani sera sei libero? Ma non parliamone nemmeno. Dice: ma come, ma devi partire per un viaggio? Ma io ti sdico qualunque viaggio, ma c'è una visita medica da cui dipende la tua esistenza. Da questo dipende, risponderete voi, la mia esistenza. E quindi sembrava le prendre en affection. Nella mancanza di sentimenti di Arnoux, il massimo che può fare, evidentemente, è avere un certo affetto, no? Un certo affetto, come un cane, per esempio, che circoli dai paraggi di casa tua, a un certo punto tu ti affezioni e lo fai entrare, se il cane è sempre quello, lo fai entrare, eccetera. E dimostrò Arnoux l'arte di riconoscere i vini. È meraviglioso. E capite? Cosa può fare Arnoux? A noi è uno che naturalmente un ragazzo può fare la lezione. Può fare la lezione. Su che cosa? Se non l'avete ancora. Non ve l'ho ancora letto questo passo, Sicuro? Non lo letto. Allora, ditemi una cosa, ragazzi, facciamo questo piccolo giochetto. Su che cosa può fare la lezione a noi? Uno, i vini, lo dico lei. L'altra cosa? Le donne. Poi la vita, cioè la vita. Il lavoro. Sì, il lavoro. Ma per esempio, oggi di che cosa potrebbe essere un uomo? Ma oggi di che cosa potrebbe essere? Arnoux. Ah, oggi. Ecco, oggi. Chi me lo sentiva? Lo sentire lei? Di che potrebbe parlare? Arnoux, un ragazzo. Di politica? Sì, ma di una cosa molto più. Di tecnologia, di telefonini. Quando vedete qualcuno particolare, che qui all'università di giorni, particolarmente coglione, se fate attenzione, dopo un po'. Vi parla di cellulari, è quasi impossibile evitare sentire parlare di cose di questo genere qua, no? E quindi lui dimostrò l'arte di riconoscere i vini, di brûler le punch, di fare il punch, di punch, di fare dei salmi, cioè di cucinare, no? Perché vuol far vedere che maestro nel fare la carbonara non ce l'avevo, ma avevano però i salmi per caccia, capisci? Prova con calorie, cosa deve essere. Frederick seguiva docilmente i suoi consigli, amando tutto quello che dipendeva da Madame Arnoux, i suoi mobili, i suoi domestici, la sua casa, la sua strada. Non parlava affatto durante quei pranzi. Lui la contemplava. Lei aveva a destra, sulla tempia, un piccolo nero, e le sue bandi capelli erano più nere che il resto della capigliatura, le sue bande sul capo erano più nere del resto della capigliatura, e sempre come un po' umide sui volti. E le toccava, gli accarezzava i capelli di tanto in tanto, con due dita soltanto, quindi una meraviglia. Chi ama la letteratura, se non amate queste cose potete dedicarvi all'Aterenzio. Da qui si vede se uno ama la letteratura. I capelli se li accarezzava, no? Con due dita, aveva due bande di capelli, va bene? Con due dita soltanto. Conosceva lui la forma di ognuna delle sue unghie, si dilettava ad ascoltare il fruscio della veste di seta quando passava vicino alle porte e odorava di nascosto il profumo del suo fazzoletto, il pettine, i guanti, gli anelli, erano per lui delle cose particolari, importanti, come opere d'arte, quasi animate, come fossero persone, e tutte gli prendevano il cuore, aumentavano la sua passione. Consideriamo questo mirabile passo. Dunque, non parla. Quando uno è di fronte all'oggetto d'amore, in una condizione di timidezza, lo contempla, ma non mi parla. Non mi parla perché? Sapete perché non mi parla? Perché non osa? No, perché direi non vuole disturbare questa intesa miracolosa che si è stabilita con la donna amata. E come la vede? La vede che ha queste bande di capelli neri, e qui c'è una squisitezza che se amate la letteratura possono passare 30-40 anni, la vi ricorderete sempre, questa squisitezza. Aveva le bande di capelli neri. O nei capelli neri, sapete che durante nella topica i capelli biondi sono i capelli della donna seduttrice, i capelli neri sono i capelli di Penelope, naturalmente, sono i capelli della donna di casa, dell'amata, insomma, della persona che sta in casa, mentre la donna bionda è la persona, è l'amante. L'amante è in una sorta di topica, è bionda, ecco, la bruna è la moglie. Ma c'è quest'idea di casa che la rende ai suoi occhi di lui ancora più affascinante. E i capelli, ecco, sono umidi. Perché sono umidi? In fondo il dettaglio può sembrare irrilevante, ma non è irrilevante. Perché noi amiamo in una donna, sarà molto delicato, un corpo umido, una donna che ti si presenta e dice: io sono secca come una ringa, affumicata. Beh, una donna deve essere umida, avete capito a cosa sto alludendo? Alle parti sessuali, questo. Ma umidità vuol dire non solo umidità vuol dire che assorbe il mondo esterno. I secchi non assorbono. Io avevo scritto una volta, da molti anni fa, sul secco e sull'umido. Il secco ti respinge, no? Tanto è vero che anche nel modo di parlare, una persona che parla in modo secco è una persona che ti mette pesante, ma una persona che parla in modo, non si usa questa espressione, ma che ti parla in modo umido, è una persona che in qualche modo ti scalda, ti coinvolge. E quest'umidità fa pensare anche a dei lavacri, forse si sarà lavato i capelli, ma quindi lavato i capelli dove l'ha fatto? L'avrà fatto al bagno, no? L'avrà fatto in un'intimità. E allora vedete che l'erotismo si accende con queste cose qua, perché capelli bagnati vogliono dire intimità, vogliono dire pulizie personali, no? Tutte le persone che amano in modo non adolescenziale sono legate proprio all'intimità, all'igiene della persona, e spesso amano delle porcherie. Qui vedete che il discorso è sempre molto attento nello stare sui bordi, che altri avrebbero, per cui altri avrebbero schifo, ma invece all'innamorato piace perfino il cerume delle orecchie. Quando uno è molto innamorato fa cose anche peggiori. Fa cose anche peggiori, perché è come se tutto il corpo in realtà, non per una malizia particolare, ma fosse assorbito nel desiderio della persona. E uno prima non sa più dove mettere le mani, poi le mani, se sono lì non sono là, il punto è questo. E secondo qualsiasi cosa, insomma, anche le cose che sono rivoltanti, ripugnanti, e che non possono essere dette perché nessuno le potrebbe intendere, ma assunte nel sacro cerchio dell'amore sessuale, e diventano di smagliante bellezza. È chiaro il concetto? È chiaro? Ha visto quello detto bene questo, Parlo bene, dica la verità. Benissimo. Non ha dei dubbi? Sicuro? Secondo ti conforta. Sono io che ho bisogno di questi complimenti di metà mattina. Dunque, e carezzava, ma una donna che si carezza, cari miei, è una gran bella cosa, se la donna amata si carezza, è come se carezzasse lei al posto tuo. E quindi tu, come dire, ti immedesimi, if you know what I mean, ti immedesimi nella mano che accarezza i capelli. Ecco, bisogna fare una lezione del genere davanti al cardinal Bagnasco. E poi i capelli sono molto importanti per una donna, non sono fondamentali, una donna è la prima cosa a cui cura e se ha i capelli a posto, eccetera. Ci sono altre cose che una donna cura le unghie, cioè insomma io ho conosciuto nella infinità per motivi professionali e non di donne che ho conosciuto nella vita, mi sono sempre imposto, da un certo momento in poi devo dire, perché poi le perversioni non sono sempre le stesse, nascono niente, ma da un certo momento in poi ho cominciato a guardare i sottecchi naturalmente, le unghie, escludendo violentemente quelle che avessero unghie zozze e unghie listate a lutto, nere o mangiucchiate, senza parere quando arriva una studentessa durante l'esame un occhio, uno solo è delegato a scendere per esaminare la perfetta tenuta delle unghie. A volte ci sono quelle unghie orrende, che tinte, che voi ragazzi usate, io chiedo quelle di bianche, mostruose, spaventose, sono una specie di parodia, sarebbe come se un uomo si presentasse con un pene finto. Un grande pene, ma come per è un tumore in plastica, un tumore in plastica, non è vero, ma allora non vale, non può venire omologato sostanzialmente un pene di plastica. Ecco, e questo è questo unghione veramente da Cruella de Vil. Sapete che era Cruella de Vil, quel personaggio dei clienti, che sono unghie che parlano della vita interiore della persona, perfettamente tagliate, limate, splendide unghiette che denotano un contatto affettuoso con se stessa. Quindi lui guardava le unghie e sembrava che fossero delle cose particolari. E poi, siccome nell'amore dovete sapere che la cosa più importante, qual è il senso dei nostri sensi? Qual è il più importante nell'amore? Certo, siete piccoli. Qual è la regola? L'ho fatto, gli animali come che si amano? L'ho fatto, no? Cioè noi abbiamo degli amori feroci, questo lo dicono gli scienziati, per le persone dice, ma quello è una stronza, una bastarda, ma puzza bene, puzza bene, profuma bene, c'è gente che ha perso la propria vita dietro maglioni sudati nelle ascelle, maglioni, sapete come si chiama in gergo sessuale questo? Si chiama culo cassolette, e quando tu alzi il braccio, e improvvisamente l'amante viene inondato da una zaffata di sudore che ha allignato nella lana. Eppure, se tu quel corpo lo ami, queste sono cose che ti colpiscono. D'acciaio qui in mezzo alla fronte. Lasciatevi servire. Le donne che sono troppo pulite, bisogna gestire molto bene queste cose. Dunque, riparte qualcosa un po' della vita, voglio dire, insomma, delle facce che denotano talmente tra i 3 e i 6 anni, che vecchi di voi hanno facce da 7, insomma. Allora, voltiamo la pagina. 10, questo è il capitoletto 10, andiamo, sono capito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui diceva che no, che meraviglia questo capitolo. È il capitoletto 11 che inizia il remonté o alzare le quartier la terre. 84. Allora, lui è rimasto d'estate, gli esami sono andati male, non ha potuto farli, lo vedrete poi, no? E però allora dovrebbe tornare a casa, non già su sé, e la madre, come tutte le brave madri del mondo, dicono, ma insomma, non hai fatto via la mia casa, insomma, perché tutte le mamme del mondo, poi lei ha una mamma, allora deve sapere questo, che sua mamma tiene a lei, tiene solo a lei, al che magari lei dirà di se stesso, come io, uno stronzo qualunque, nel nipote, eppure le mamme tengono ai figli, E quindi quando vanno via i figli, stanno male, quando si sposano è un tormento, perché vogliono che vengano a pranzo, e qui e là, eccetera, insomma. Quindi il figlio che sta a Parigi, quell'epoca, da solo, dice ma come, manca bene, adesso non hai fatto gli esami, non hai fatto niente, torna al paese latino. Eh già, ma lì ce la daranno? C'è? Ci sarebbe, perché Madame Arnoux, quando lui ormai ha deciso di star lì, è partita per la villeggiatura. È partita per la villeggiatura. Ecco, e questo è un tema. Cioè, la villeggiatura, in realtà è da trovare la madre malata, ma insomma, non ha importanza così dettagli. Non c'è. Non c'è. E lui che fa? Che diventa la città della donna amata se non c'è più la donna amata? Che diventa? È un luogo in cui ritrovarla come? Nostalgia, un luogo in cui ritrovarla instancabilmente. E lui cammina, e adesso vi dico un aspetto dell'educazione sentimentale fondamentale. Camminare. Questo libro è un libro che racconta il rapporto del protagonista con le strade. Come vi ho accennato, mi pare, la volta scorsa, pensate quanto le strade sono importanti nella nostra vita, no? Qui siamo in una zona, diciamo così, non esattamente centrale di Roma. Siamo in una zona decisamente periferica, che è circondata, vi informo, perché non lo sapevate, da una specie di autostrada, che si chiama GRA, GRA, GRA, detta GRA, è il raccordo anulare, è il raccordo anulare. C'è qualcuno di voi che è stato sul raccordo anulare? Credo che conosciate bene la raccordo anulare. Ecco, penso. Quante volte ci andate? Quante volte venite qua? Quante volte fate la strada di casa? Come cavolo passa la vostra vita? Sapete come passa? Camminando. La nostra vita passa camminando in casa, naturalmente, no? Dal salotto alla camera da letto, al bagno, alla cucina, camminando giù dalle scale, camminando per andare a trovare gli amici vostri, muovendovi. In questa educazione del cuore, di questo stiamo parlando, noi vediamo lui che cammina, che va per Parigi. Parigi è la città di lei, va per Parigi. Ma quando lei va fuori da Parigi, lui va fuori da Parigi. Poi c'è lo Jean sur Seine, la casa, qui deve tornare. Quindi c'è un vagabondare sostanzialmente del personaggio che mi ha fatto pensare a scrivere a suo tempo, su Flaubert, che appunto la vita è sostanzialmente una grande marcia. Pensate alle scarpe che abbiamo usato, che abbiamo buttato via, quelli che ci hanno accompagnato fedelmente, poi quando uno, non so se è una vostra esperienza, ha delle scarpe che compiono, prima di buttarle via, le vuole, le scarpe nuove non le compra, perché fanno male, eccetera, insomma. E qui lui passeggia per Parigi. Il quartiere latino, c'è qualcuno di voi che conosce il quartiere latino a Parigi? Chi lo vede lo conosce. Il quartiere latino, ecco, lui andava, è un quartiere dei giovani, quartiere degli studenti, eh? E quindi sentite questo passo mirabile, lui risaliva a caso il quartiere latino, così tumultuoso di solito, ma deserto, c'era l'estate, ma deserto in quell'epoca, perché gli studenti erano partiti per le loro famiglie, latino. Attenzione bene, I grandi muri di collegio, come allungati dal silenzio, avevano un aspetto più cupo ancora. Si sentivano ogni sorta di rumore tranquillo, di battiti di ala nelle gabbie, e il ronzio di un tornio, e il martello di un ciabattino, e i venditori di abiti in mezzo alle strade interrogavano con l'occhio ogni finestra, inutilmente. In fondo ai caffè solitari, la signora del banco sbadigliava tra le sue caratte piene. I giornali restavano in ordine sulla tavola delle sale di lettura. Nell'atelier delle stiratrici, dei panni frusciavano sotto delle leggere ondate di vento caldo. Di tanto in tanto si fermava davanti al banco di un venditore di libri anticaglie, un omnibus che scendeva, frusciava lungo il marciapiede e lo faceva voltarsi. Giunto davanti al Lussemburgo, non andava più oltre. Qualche volta la speranza di una distrazione lo attirava verso i boulevard. Dopo cupe stradine che esalavano frescure umide, arrivava su grandi piazze deserte, abbaglianti di luce, e dove i monumenti disegnavano ai bordi del selciato delle frastagliature d'ombra nera. Ma le carrette, i negozi ricominciavano e la folla lo stordiva, la domenica soprattutto, quando dalla Bastiglia fino alla Madeleine era un immenso flusso ondulante sull'asfalto, in mezzo alla polvere, in un rumore continuo. Si sentiva nauseato dalla bassezza di certe facce, dalla stupidità dei discorsi, dalla soddisfazione imbecille che traspirava sulle fronti sudate. E tuttavia la coscienza di valer più di loro attenuava la fatica di guardarli. Questa pagina prestigiosa richiede un'analisi un pochino dettagliata. Quartiere Latino, nella scrittura nulla è a caso. Quartiere Latino è proprio il quartiere dei ragazzi, il quartiere degli studenti, degli studenti universitari. E gli studenti universitari naturalmente stanno in un certo luogo finché questa università c'è. Se l'università non c'è più, non ci sta. È torregata d'estate, dopo diventa un posto assolutamente deserto. Se voi vi trovate qui d'estate, avete un coccolone alle 2 del pomeriggio con il sole, ecco, ci sono le alte probabilità che lì rimaniate a vivere gli ultimi secondi della vostra vita colpiti da un ictus. Io mi ricordo il nostro lettore di francese, a me carissimo, io molto caro a lui, ma lui impassibilmente francese, per venire un tono fatto per venire qui, non so se qualcuno lo conosce. Una volta ci provammo 10-12 anni fa, stavamo nella vecchia sede, senso di ruta periferia, era ancora superiore, era pomeriggio. A un certo punto io mi sentii poco bene e camminavamo insieme in quest'asfalto, un sabato pomeriggio di luglio a Roma, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, insomma tutto. E mi ricordo che ero vicino a lui e a un certo punto una macchina passò e mi venne questo strano pensiero in testa, quasi la macchina mi investe. E io pensai che lui, da francese impeccabile, insomma, avrebbe proseguito oltre a raccogliermi. Ci saranno stati, come la famosa canzone di Venditti, 41, la conoscete quella del 41 all'ombra? 41 all'ombra, il sole picchiava, una macchina passava, se ne investiva. Insomma, ci sono certi luoghi di deserto e di solitudine in una città che può conoscere soltanto chi sia rimasto. Noi stiamo andando gloriosamente verso le terribili estate romane, spaventose, che uno per dimenticare cerca di andare a Torvaianica, a Fresina, chi può, naturalmente si sposta. Va. Però, insomma, voglio dire, le grandi calure dell'estate con i loro fascini e le loro maledizioni ci perseguitano un po' dappertutto, anche se andaste in Sardegna, naturalmente. E quindi, e in questo quartiere Latino adesso è deserto e i muri allungano le loro ombre in silenzio sulle strade e ci sono dei piccoli rumori. Quindi prima c'è la descrizione del silenzio, poi dei piccoli rumori. Guardate che i piccoli rumori, come potete immaginare, vengono messi in evidenza dal silenzio. È l'opposto, naturalmente. Cioè il ronzio di un tornio, i torni c'erano allora, evidentemente in una giornata normale non si possono sentire, ma nel silenzio tu lo senti, il ronzio di un tornio. Ma sentite Sentite questa meraviglia. Questo è Rembrandt. Questo è Rembrandt. Ricordate quello che vi dico. Scrivetelo. A un certo momento si sentono dunque il ronzio, i battiti di ali, gli uccellini nelle gabbie. I battiti di ali, il ronzio di un tonno, il martello di un ciabattino e i venditori di vestiti, quelli evidentemente ambulanti, che vanno per le strade, c'erano queste abitudini che guardavano in alto alle finestre che fossero eventualmente aperte per vedere se qualcuno venisse a fare la loro affare. Ma io trovo particolarmente bello, ho una predilezione, confesso, in questo brano, e bisogna avere delle predilezioni, così come uno ce l'ha per il corpo della donna amata. Ci sono alcuni, per esempio, che amano nella donna amata una certa piccola cosa, minutissima, uno zigomo, no? E se sono molto fini, dicono io amo molto il tuo zigomo destro. E naturalmente la donna amata si aspetta che dici ma come mamma, di cose più clamorose, ma non mi ami le dette. Dico sì, le dette, certo, quelle servono per altre finalità, ma lo zigomo mi eccita particolarmente, no? Il tuo zigomo destro. E così a me eccita particolarmente questa storia dei panni. Allora si stiravano i panni, c'erano ancora i negozi che erano aperti durante l'estate. E i panni venivano messi fuori, non c'era lo smog, non c'era ad asciugare, no? Ad asciugare. E però, e qui è il genio, c'era un venticello, e qui dovete chiudere gli occhi e immaginare cos'è il venticello estivo. Uno, due, tre, chiudete gli occhi, due, aprite. Avete immaginato il venticello estivo? Quindi se una camicia è stesa, immaginate una camicia da donna, non da uomo, che sono più rigide le stoffe, eccetera, no? Immaginate che arrivi un venticello estivo e muova un pizzo, un merletto di queste camicie, eh? E sentite, a questo punto bisogna fare così, bisogna sentire l'odore dell'aria, come molte volte vi ho detto, se la cosa è troppo bella nella lettura, io mi auguro che sia troppo bella, dovete chiudere il libro, questo ve l'ho detto sempre, voi siete del primo anno, è una cosa che ripeto sempre. Non dovete andare avanti. Che dovete fare? Poi? No, abbiamo già chiuso gli occhi, li abbiamo riaperti, abbiamo visto che il piacere era molto alto. Cosa bisogna fare? Tutto il piacere è un coitus interruptus. Questa è un'altra frase. Andate al frigorifero, è fondamentale. Dove avrete preparato previamente uno squisito panino. Mangiate un panino e godetevi il fatto che il libro vi sta aspettando con le sue bellezze là. È esattamente come in una conversazione d'amore. Se voi avete da parte dell'altra persona, chiamate una bellissima frase, sareste sciocchi a volerla succhiare troppo presto. Fate finta di non averla capita. In modo tale che la persona rimanga perplessa e voi possiate assaporarvi nel silenzio il segreto della gioia che avete provato, capito? Poi tornerete sull'argomento. Insomma, c'è un'arte del piacere che non è pleonastica alla vita, ma è essenziale alla vita. C'è un caffè, i caffè vuoti, non ci sono clienti, e quindi la dame au comptoir, che cosa fa? Sbadiglia vicino alle caraffe piene. Perché le caraffe sono piene? C'è nessuno. Poi che succede? Che i giornali una volta si usavano a Parigi, ancora adesso, i giornali che vengono stesi per la lettura, ma nessuno ha toccato questi giornali. Di tanto in tanto lui si ferma davanti a un venditore di libri, che sono lì nella speranza di qualcuno. Passa una carrozza, un omnibus, frusciando, quindi non c'è nemmeno il rumore della carrozza che disturba questa quiete, e qualche volta lui va per le stradine vicino ai boulevard. Siete pronti? Stradina d'estate. Ditemi l'ora. No. Siamo di mattina. Non fate cazzate. Siamo di mattina, Sono le 10 e mezza, allora lo dico io, parlare queste cose. Sono le 10 e mezza del mattino, una bellissima giornata d'estate. Dal boulevard, chi conosce i cieli di Parigi e l'aria di Parigi, chi conosce, chi ha nel naso, bisogna avere nel naso l'aria di Parigi, sa che cosa è le 10 e mezza del mattino del 28 luglio, del 28 luglio di un giorno a Parigi. I vicoletti sono numerosi, sono chiusi, sono stretti, quindi il campo molto meno caldo, ma molto meno caldo. Si entra lì, in questi vicoletti, che hanno una frescura umida, e poi questi vicoletti però spuntano, vanno a finire su delle piazze. Come una piazza d'estate a Parigi? Ve lo dico a lei. Assolata. Quanto è grande? Sembra. Venendo dal vicoletto, sembra enorme, sembra enorme. C'è una sorta di sensualità nel passare da questi vicoletti piccoli, raccolti, umidi, odorosi, sessuali, a queste grandi piazze che ti accolgono nel loro splendore eterno, sempre. Ecco. Arriva in queste piazze dove i monumenti fanno delle ombre nere e riprende a camminare dalla Bastiglia alla Madeleine. Siamo nel centro trionfante di Parigi, dalla Bastiglia alla Madeleine, e qui siamo arrivati adesso dove c'è la gente. Se voi andate ai Champs-Élysées adesso a Parigi a quest'ora, troverete i Champs-Élysées pieni di gente. No, ci sono le strade piccole, ma diciamo se esistono, pieni di gente. Gente che va con una sorta di onda, e lui, Frédéric Moreau, sente che questa è la vita. Allora guardate quello che è successo in questo passo. Lui è rimasto a Parigi. È rimasto a Parigi per frequentare lei, Madame Moreau. Ma lei non c'è. Ma chi c'è al posto di lei? Parigi. E il marito, sì, ho capito così, marito. Sì. No, ho capito, certo, ma serve Parigi. Quindi è come se avesse un'altra amante, capite che è la cosa bella? Lei ha un amante? No, ecco, forse l'ha l'altro. Ma mettiamo che le capiti questo: all'appuntamento il suo amante non viene. È un po' rabbia, dica la verità. 5 e mezza, 5 e tre quarti, non è venuto. Sto bastardo, figlia mignotta. Questo è il mio che voglio dire. Però mettiamo che a un certo punto voi chiediate un'informazione a un signore che lì sta passando per caso, e questo signore improvvisamente vi provoca un sorso di tenerezza, di affetto, di slancio nel cuore. E pensate, com'è gentile, in genere la parola gentile è quella che fotte ogni essere umano quando si innamora. Ricordatevi quello che vi dico. Quando faccio questo gesto non mai capito cosa vuol dire. Com'è gentile, è così che sono venuti i peggio adulteri della storia. Com'è gentile. E poi magari questo signore, vedete che tiene a voi, l'altro non è venuto, quello diventa il nuovo amante. Avete capito? Il nuovo. Quando si è giovani poi, in quelle sentite di corruzioni che sono i vostri Erasmus in cui andate sostanzialmente per questi scopaggi industriali, e a questo punto voi capite come Parigi si sia sostituita completamente a Madame Arnault. Non è Madame Arnault, no, non si può desiderare Parigi con Madame Arnault, ma sentite che la sensualità di Madame Arnault, siccome dovrà essere vissuta, si è un po' trasferita a Parigi, perché l'uomo è economicus, se non ha un piacere da una parte, lo vede dall'altra, e Flaubert Frédéric, siccome non ha messo qui Madame Arnault, perché quella sta fuori, no? Non l'ha messo lì, allora però ha messo la città, e allora noi vediamo che si può amare non solo una donna, ma si può amare anche come succedaneo una città. Bene, e adesso c'è l'altra ora, naturalmente tra 5-10 minuti.